cielo annuvolato che scorre lentamente via da me. La tua fragile anima è riflessa nei tuoi occhi. Chissà se un altro bacio basterà per nuove emozioni o nuove sensazioni. Ti guiderò come un faro nella notte, restando in silenzio. Ti ascolterò, bruceremo insieme i ricordi del passato. Sentirà se lo vorrà, se lo vorrà. Una carezza basterà. Desiderio, l'ho immaginato in quest'aria pesante che mi sta lentamente torturando. Ora il cuore che mi brucia, e basterebbe una carezza per stendere le mie rughe di dolore. Regalami nuove emozioni o nuove sensazioni. Ti ascolterò come nessun altro, restando in silenzio. Ti porterò via lontano, fuggendo insieme dai sogni del passato. L'anima sa che il mio calore sentirà, se lo vorrà, se lo vorrà. Una carezza basterà. Basterà.